2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì 22-23, tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, ma come sempre vi ricordo la nostra versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Ci trovate su Facebook, Twitter oppure alla nostra email 2024@radio24.it. In questa puntata dedicheremo un approfondimento al mondo dell'automobile che, grazie alla tecnologia, grazie agli smartphone e in generale ad internet, si sta trasformando molto velocemente e si trasformerà nei prossimi anni. Beh, forse già in questi mesi, in questi ultimi mesi, abbiamo visto molte novità che vedremo espandersi prossimamente. Ma dedicheremo anche un approfondimento, alcuni minuti, a quello che è successo tra la scorsa settimana e questa settimana, cioè l'attacco ransomware di cui si è parlato per giorni, di WannaCry, perché dopo qualche giorno si possono fare alcune considerazioni molto interessanti. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Beh, sicuramente la notizia più importante della settimana riguarda il mondo dei pagamenti in mobilità, i pagamenti via smartphone. Da questa settimana anche in Italia è attivo il sistema di pagamento Apple Pay. Per ora possono virtualizzare la propria carta di credito sull'iPhone i possessori di carte Mastercard e Visa emesse da UniCredit, Banca Carrefour e Boon. Boon con B2O e una N, un nuovo servizio per virtualizzare carte di credito sullo smartphone. Poi questo servizio si evolverà, cioè Apple Pay avrà ovviamente anche altre carte di credito da abbinare. La fase di registrazione è molto semplice, si inizia facendo una fotografia alla carta di credito che si virtualizza sullo smartphone e dopodiché si può pagare, basta avvicinare il telefono sui POS abilitati, quelli contactless. Una notizia che arriva dall'Unione Europea, è una buona notizia. Quando viaggiate all'interno dell'Unione Europea, a molti di voi sarà capitato di non riuscire a vedere dei contenuti sulle piattaforme di streaming video, sia quelle per cui pagate un abbonamento, sia quelle gratuite come RaiPlay. Appare un messaggio e dice: nel paese dove tu ti trovi in questo momento, questi contenuti non sono disponibili, perché i contenuti purtroppo seguono i confini nazionali e non i confini europei. Allora, finalmente il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza un provvedimento che permetterà, fra alcuni mesi, dopo una serie di passaggi tecnici, la cosiddetta portabilità dei contenuti anche all'interno dell'Unione Europea. Sarà necessario il via libera del Consiglio dei Ministri europei. Un tentativo di estorsione, visto che tra poco parleremo di estorsioni digitali, lo ha subito anche la Disney. Un gruppo di hacker è riuscito ad impossessarsi del nuovo film I Pirati dei Caraibi 5, che non è ancora uscito al cinema, e per evitare che finisca online prima del lancio ufficiale, gli hacker chiedono un riscatto che pare la Disney non sia intenzionata a pagare. Un'ultima nota riguarda Google I.O. Che ha presentato tutta una serie di servizi che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nel mondo di Google. Ne parleremo ovviamente a 2024, quando saranno disponibili anche in Italia. Adesso parliamo di cybercrime, parliamo di WannaCry, ma non solo, parliamo di quello che è successo negli ultimi giorni, ma soprattutto direi quello che succede tutti i giorni senza che noi ce ne accorgiamo. Se ne accorgono ovviamente gli esperti, gli addetti ai lavori, ma attacchi informatici piuttosto ingenti accadono tutti i giorni. Ovviamente ci sono alcune considerazioni da fare su quello che abbiamo vissuto invece negli ultimi giorni. Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di security, bentornato a 2024. Grazie. Tu, Andrea, sei oltre che un esperto di security, di cyber security, sicurezza informatica, sicurezza cibernetica, insomma si possono dire tante cose. Membro del consiglio del CLUSIT, che è l'associazione italiana per la sicurezza informatica, e sei uno degli esperti che scrivono il rapporto. Esattamente. Annuale o semestrale del CLUSIT? Lo aggiorniamo semestralmente, ma l'edizione principale è annuale. È annuale. Inserite moltissimi dati che ci raccontano come sta evolvendo, diciamo così, il mondo della sicurezza informatica con una prospettiva ovviamente italiana, e ci sono alcuni dati interessanti, tra cui ad esempio un dato relativo al ransomware, che è aumentato questo tipo di attacco del 250% nel corso dello scorso anno. Visto che l'attacco, l'ultimo attacco che vogliamo commentare è un attacco ransomware, ricordiamo di cosa stiamo parlando, di un ricatto digitale. Assolutamente, il ransomware è, contrariamente a quello che si è sentito dire anche troppo frequentemente, non è un attacco hacker come potrebbe essere il dispetto di un ragazzino smanettone o di un antagonista, no? Il ransomware è di fatto l'uso del software come strumento per realizzare un reato antichissimo, che è l'estorsione. Quindi è il pizzo l'estorsione, digitale. L'estorsione, giusto, okay? Perfetto. È un'estorsione. Sostanzialmente come funziona? Per una serie di vettori di attacco che possono cambiare, possono essere via mail, via social network, via instant messenger, l'utente riceve un messaggio con un link o con un allegato, si fa, diciamo, imbrogliare dal contenuto di questo messaggio e viene indotto a cliccare questo link o aprire questo allegato. A questo punto inizia l'esecuzione, sfruttando delle vulnerabilità del sistema, di questo software. Questo è un programma. I virus informatici sono software come qualsiasi altro, e nel caso specifico il ransomware, che dall'inglese è una parola composta, sì, ransom significa riscatto, ware da software, no? Il ransomware, che è quindi software per compiere ricatti, è un software piuttosto banale, molto semplice. L'unica cosa che fa sostanzialmente è leggere tutti i file presenti sulla macchina infettata, cifrarli con una chiave complessa e cancellare l'originale in modo che non sia recuperabile. Certo, quindi il risultato è: quei file non li posso più utilizzare, non posso accedere alle mie foto, ai miei video, ai miei documenti. Tutto sono bloccato. Stati di fatto sequestrati, sì. Perché pur essendo ancora nella mia disponibilità, lo sono in una forma cifrata e quindi sono inutilizzabili. Per ottenere la disponibilità dei miei file, il criminale, tramite il software, chiede un riscatto. Appare una schermata che dice: caro mio, se vuoi riavere i tuoi file, paga questa cifra. Tipicamente usando criptovalute per evadere le indagini, le attività investigative, diciamo, a renderle più difficili o renderle decisamente più complesse. E una volta pagato il riscatto, quasi sempre, ma non sempre, ahimè. Esatto, questo è importante, non sempre. E purtroppo è un po' un terno al lotto. Si ottiene la password che poi consente di ritornare in possesso dei propri file. Considerate che ransomware si sta evolvendo, il modello di business, chiamiamolo così, di questo tipo di criminalità sta evolvendo molto rapidamente. I nuovi ransomware, dopo che hai pagato il riscatto, quindi nel momento in cui hai dimostrato di essere, diciamo, propenso a cedere alla minaccia, ti fanno qualche altro tipo di estorsione. Per esempio, recentemente ne ho visto uno che ha colpito uno studio legale, e lo studio legale era bloccato, ovviamente, perché anche i backup erano stati cifrati insieme ai file, quindi erano veramente nei guai. Hanno pagato, e dopo aver pagato è arrivata una mail che diceva: abbiamo messo tutti i tuoi file online su un sito con tutte le pratiche delicate, anche legate a penale, no? Messe pubblicate online. Per rimuovere questo sito con tutte le tue pratiche ci devi pagare un altro riscatto. Quindi una storia senza fine. Quindi diventa una storia infinita. Sì. Chiaramente è molto meglio non entrare, non mettersi nella condizione di finire in questo tunnel. Poi ci torniamo e soprattutto ti chiederò come evitare, come prima che accada, come proteggersi preventivamente. Abbiamo parlato e stiamo parlando di ransomware perché l'attacco della scorsa settimana è stato un attacco di ransomware, e da un certo punto di vista, io ho parlato con molti tuoi colleghi, con te la scorsa settimana, ci siamo sentiti e molti di voi mi dicevano: ma guarda che questi attacchi sono frequentissimi, all'ordine del giorno, giusto? Assolutamente. Allora, Per una serie di ragioni, io credo principalmente perché ne ha parlato con un tono di allarme la BBC, dato che sono stati colpiti numerosi ospedali inglesi, il che è una cosa grave ovviamente. Certo, certo. Questa cosa poi ha ottenuto, diciamo, una visibilità mediatica particolare. Sì, era anche un weekend dove non c'erano tante altre notizie, perché a volte se non ci sono notizie, poi anche notizie minori, minori tra virgolette, però. Per una serie di ragioni, di concause, è diventato... diciamo la notizia del giorno, e quindi, ma io voglio dire, sono contento di questo perché ci dà l'opportunità di trattare questi argomenti. Ciò detto, in questo momento, io controllavo stamattina, ci sono altri attacchi informatici molto più estesi che stanno andando avanti da settimane o mesi, di cui non si parla perché se ne occupa sono solo gli addetti ai lavori. Per esempio, c'è una botnet che si chiama Necurs, che botnet significa compromettere un grande numero di macchine e poi, come se fossero degli schiavi di chi le ha compromesse, usarle per fargli fare qualche cosa. Per esempio, mandare spam, carpire credenziali bancarie, diffondere ransomware. Okay, questa quindi botnet... un esercito di computer al mio servizio se sono un cattivo. Benissimo, mentre noi ci preoccupiamo, e giustamente ci preoccupiamo, dell'attacco del ransomware WannaCry, che significa tradotto voglio piangere, okay? Quindi anche ironico nel suo titolo. Mentre noi ci occupiamo di questo, la botnet Necurs stamattina, guardando una serie di tool di monitoraggio di questi fenomeni, aveva sotto controllo 1.400.000 macchine. Mentre pazzesco. E avendone infettate di nuove 600.000 nel corso di questa settimana. Okay? Perché viene infetta, fa le sue cose, poi le macchine vengono in qualche modo sistemate e si spostano. Sì. Allora, Necurs sta facendo molti più danni di WannaCry, che è 1.400.000 macchine che stanno mandando in giro spam, malware, ransomware della variante Loki, eccetera, fanno molto più danno. Però, per qualche ragione, di questo non si parla. Sì. No? Però, diciamo, c'è una ragione, se vogliamo, che ci fa commentare, ci fa dire tutta una serie di cose su WannaCry. Perché per la prima volta nella storia che cosa è successo? Allora, ci sono alcuni aspetti singolari, alcune anomalie in questo attacco che per altri aspetti potremmo considerare, diciamo, di normale amministrazione, no? Cose che succedono ormai in continuazione quotidianamente, ma nel caso di WannaCry ci sono due aspetti che saltano all'occhio. Il primo è che hanno integrato gli autori di questo malware una componente nel malware che è stata sottratta a un'agenzia di intelligence occidentale. Possiamo dirlo, l'NSA. Che è l'NSA, la National Security Agency americana, ha subito un furto di alcuni elementi del suo arsenale. E questi elementi sono stati poi prima messi in vendita, poi questa vendita non ha avuto compratori ovviamente, e quindi alla fine diffusi nell'underground da una gang di, che non si capisce ancora bene se criminali o soggetti legati a certi mondi di intelligence, che si chiama Shadow Brokers. Questi Shadow Brokers hanno rubato questa componente di armi digitali. Passatemi il termine per semplificare. Un programma che veniva utilizzato dall'NSA. Sì, diciamo dei componenti, perché la vulnerabilità che è stata aggiunta a WannaCry, rubata all'NSA, è un meccanismo pezzettino per sfruttare una vulnerabilità di certi sistemi Windows obsoleti, che non hanno le patch che nel frattempo sono state peraltro preparate da Microsoft. Okay, però ci sono moltissimi sistemi senza le patch, ahimè. E questa, diciamo, che potrebbe essere la notizia. Cioè, questa per la prima è l'anomalia, volta, cioè un pezzo di un'arma è finito in mano a dei banditi di mezza tacca che l'hanno presa e riciclata per causare un danno sicuramente maggiore di quello che avrebbero potuto causare con il loro software WannaCry, che di per sé è piuttosto mal programmato e non particolarmente efficace o sofisticato, okay? Come se avessero messo il motore di una Ferrari a un passeggino. Certo. Allora io poi mi domando perché fare una cosa del genere, dal momento che sicuramente questo gruppo criminale, facendo così, ha attirato su di sé le ire e le attenzioni di potentissime organizzazioni, sia delle forze dell'ordine che dell'intelligence. Cioè, sicuramente li cercheranno e non faranno una bella fine, secondo me. Cioè, tu dici, perché si sono messi in un... fare così, che lo potevi fare in un altro modo? Cioè, potevi fare la stessa cosa con altri sistemi, giusto? Il ransomware Loki, che ho citato prima, è molto più sofisticato di WannaCry, ha un'efficacia spaventosa e consente dei guadagni elevatissimi a chi lo compra in questo mercato nero e lo usa. Perché non usare Loki per fare questa campagna di ransomware? Perché usare una specie di trabiccolo come WannaCry da un punto di vista informatico, aggiungendogli però questo componente pregiatissimo e potentissimo? Attirandosi le ire dei servizi segreti. Attirandosi, ovviamente. Quindi, secondo problema, o la seconda anomalia, va rilevata sempre nel comportamento di questa gang di criminali, che ripeto non sono hacker, sono criminali comuni che usano software per compiere reati. E la seconda componente è: ma perché attaccare ospedali, telco, fabbriche? Okay? Di solito il ransomware viene veicolato verso soggetti singoli più deboli, che per riavere le foto della cresima del nipote, magari privati appunto, o piccoli studi professionali o PMI, no? Perché fare una cosa che può colpire un'infrastruttura critica come un ospedale, chiedendo un riscatto di $300, cioè niente, a fronte del rischio di far morire qualcuno? Che, come leggevamo stamattina, alcuni ospedali inglesi colpiti da questo ransomware sono andati in blocco totale, quindi hanno iniziato a rifiutare i pazienti, a non svolgere operazioni anche magari di cardiochirurgia d'urgenza, perché non funzionano le macchine e quindi la sala operatoria non si può utilizzare. Questa è una cosa molto grave. Quel medico che postava, inglese, che postava stamattina questo messaggio molto... abbastanza scoraggiante, diceva: non riusciamo a fare niente, tutto chiuso, stiamo rimbalzando i pazienti e sicuramente qualcuno morirà come conseguenza di questo attacco. Quindi tu dici, perché far utilizzare questo sistema colpendo questo tipo di infrastrutture, quando, se il tuo intento è guadagnare soldi, potevi farlo con altri sistemi molto più semplici e colpendo, così come accade tutti i giorni, senza che nessuno ne parli, cittadini, singoli, piccoli studi professionali che non fanno notizia. Senza dare nell'occhio, quindi tu dici, senza sollevare allarme sociale particolare. Quindi tu dici, qua dietro c'è qualcos'altro, c'è un messaggio un po' all'umanità. No, io dico che ci sono due scenari, e l'attribution, come diciamo noi, cioè l'analisi per capire chi è stato effettivamente e quali fossero le sue motivazioni, durerà mesi, sarà complessa. Non posso quindi saltare a nessuna conclusione in questo momento, però per esperienza e a buon senso io direi che qui c'è qualcosa che non va. Questo ransomware è innecessariamente potente e colpisce soggetti innecessariamente delicati, quando, visto che la finalità di questi criminali è fare soldi facili, si poteva ottenere la stessa cosa con un ransomware di migliore qualità, senza però dare nell'occhio e colpendo bersagli indifferenziati ma non critici, che avrebbero pagato senza battere ciglio, senza tutto questo riscontro, questo eco mediatico, no? Quindi o questi sono dei totali sprovveduti, dei pazzi furiosi, quindi non hanno valutato, oppure potrebbe essere, e questo è un trend che stiamo osservando già da tempo, un'operazione di psychological warfare mirata a generare ansia, a generare insicurezza, a generare caos. Psychological warfare è guerra psicologica. Questa è una branca, diciamo, dell'arte della guerra consolidata da secoli ormai, no? Ma che nel mondo digitale sta prendendo nuove strade e sta, diciamo, vivendo una nuova giovinezza, perché si presta molto bene al digitale. Ma per fare che cosa? Per creare, diciamo, una sensazione di panico, di ansia, di, cioè una forma di strategia della tensione, per indebolire sostanzialmente l'avversario. Però, diciamo, il lato positivo di tutto ciò è che, ad esempio, noi ne stiamo parlando, molti ne stanno parlando, e forse ci si accorge, cosa che noi diciamo da anni, che bisogna occuparsi di sicurezza cibernetica, come si dice, di sicurezza informatica. Questo è il lato positivo di tutto ciò. Allora sì, ma temo che non sia sufficiente, nel senso che i problemi che ci sono a monte, le cause alla radice del fatto che possano succedere fatti di questo genere sono veramente complessi, profondi e difficili da trattare semplicemente con una reazione emotiva e qualche poi diciamo attività più o meno scoordinata. Cioè, noi qua abbiamo un problema notevole, molto interessante dal punto di vista accademico, ma dal punto di vista pratico è abbastanza terrificante. Cioè, noi abbiamo una tecnologia digitale in tutte le sue mille articolazioni, forme, che è nata per fare cose diverse rispetto a quelle che pretendiamo di farci oggi. È nata in ambito consumer. È nata negli anni, negli anni 70-80, sì. Con presupposti completamente diversi, senza avere la possibilità di immaginare le conseguenze, gli effetti domino che si sarebbero avuti collegando miliardi di nodi con una rete iperveloce. All'epoca era impensabile questo, però il protocollo della posta elettronica, quello della navigazione internet, tutta una serie di sistemi che ancora noi usiamo, anzi sui quali ormai facciamo affidamento, senza i quali non funziona la nostra civiltà, sono stati pensati in altri tempi per altri scopi. Quindi, e sono inadeguati al mondo di oggi. Diciamo che non hanno scalato e perché non sono stati progettati da un punto di vista ingegneristico per fare quello che noi oggi pretendiamo di fargli fare. Cioè nessuno pensava che una macchina Windows XP sarebbe stata integrata in un apparato medicale senza il quale non si possono fare operazioni a cuore aperto quando è stato progettato Windows XP. Era una cosa impensabile. Certo. Oggi la realtà, questi ospedali usano questa tecnologia per le loro attività quotidiane. Questo è un problema sistemico globale. In questo momento non ci sono però degli enti, dei poteri che sono in grado di indirizzare un problema su scala globale prendendo decisioni nette e magari anche drastiche. Per esempio, buttiamo via tutto, rifacciamo tutto. Inoltre, i costi per rifare o per sistemare significativamente quello che stiamo usando oggi sono talmente alti che in questo momento non ci sarebbe il budget, perché non sono stati previsti. Nessuno ha calcolato nel 1990, ma anche nel 2005, che entro 10 anni ci saremmo trovati in una condizione di questo tipo e avremmo dovuto fare investimenti giganteschi per rimediare. Adesso i soldi per fare questi investimenti dove li prendiamo? Quindi il modello di business stesso dell'applicazione dell'IT che oggi è messo in discussione. Sì. Okay. Quindi tu stai dicendo, stiamo utilizzando tutto un sistema, cioè stiamo utilizzando una internet che è cresciuta su delle basi troppo deboli. Quindi dovremmo, da un certo punto di vista, anzi, senza un certo punto di vista, dovremmo ricostruire tutto, soprattutto un certo tipo di comunicazione, ad esempio l'email. L'email è noto tra gli esperti che non è adatta alle comunicazioni, alle comunicazioni massicce a cui siamo abituati oggi. Diciamo una cosa, sì, sono d'accordo, ma fammi fare una piccola specificazione. L'email di per sé nasce per mandarsi dei messaggini da una stanza all'altra di un'università americana. Questo era il suo scopo. O tra un'università e l'altra. Dopodiché, gratis, perché la ricerca era stata pagata dallo zio Sam, qualcuno con la diffusione di internet al pubblico, che prima era una rete chiusa, ha deciso di prendere questo componente off the shelf, si dice, no? Dallo scaffale, free, e integrarlo e costruirci sopra dei business. E questi business nel frattempo sono diventati miliardari o stramiliardari. Ma sempre a partire da una cosa che era stata fatta da dei ricercatori che stavano sperimentando. Nessuno ha detto progettami un sistema col quale faremo funzionare il mondo. Ok? E poi l'abbiamo fatto però. Allora, ci sono dei limiti proprio intrinseci in questa tecnologia. Per esempio, chi ha disegnato il protocollo della posta non ha previsto che qualcuno volesse mandare una mail a nome di un altro, perché si mandava le mail tra scienziati. Il presupposto è che fossero tutti buoni. Ok. Bene, dato che il protocollo della posta non impedisce per sua natura che qualcuno possa mandare una mail a nome di un altro, questo accade tutti i giorni. Questo accade in tutti i giorni. E oggi i miei dati dicono che il 95, 93, 97% del traffico email mondiale è spazzatura, spam, phishing e attacchi informatici. Il 95%. Okay? Questo chiaramente è ben oltre il problema fisiologico, no? Cioè è un problema patologico. Le patologie si affrontano tagliando, operando. Ma come se ne esce? Perché ovviamente molti dei nostri ascoltatori diranno: vabbè, questo è un problema. Come si risolve il problema? Si risolve o non si risolve? Perché allora, se non si risolve, dobbiamo trovare delle contromisure di diverso genere. No, dunque, questo è ovviamente il mio punto di vista personale. Innanzitutto, il problema si può risolvere, diciamolo. Ma aggiungiamo che questo non è un problema tecnologico. Se qualcuno desse il via a un gruppo di lavoro o n gruppi di lavoro e dicesse rifate tutto, tra un anno sarebbe tutto pronto. Il problema non è tecnologico, il problema è economico, perché ci sono enormi interessi legati allo status quo. Quindi dire buttiamo via tutto fa saltare gli equilibri che ormai sono quindicennali, ventennali, intorno alla quale girano tantissimi soldini. E poi c'è un problema dal punto di vista della volontà politica. Cioè, in questo momento, ma non solo in Italia, da nessuna parte qualcuno ha la voglia, il coraggio, la lungimiranza di dire da domani, e vi faccio un esempio, i produttori di software sono responsabili per le vulnerabilità dei loro prodotti. Considerate che oggi non è così. È l'unico campo di azione umana nel quale il produttore, quando ti consegna il suo prodotto, cioè un software, ti fa firmare una specie di liberatoria. Non so se avete mai letto quei contratti. Sì, sì, per tutte le conseguenze sono... Sì, c'è scritto, usalo a tuo rischio e pericolo, questo prodotto è fornito as is, no? Così com'è, senza implicazioni di responsabilità. Allora, questa cosa non succede in nessun ambito, tranne l'informatica. Se io compro un'automobile, non è che se schiaccio il freno e non frena, il produttore è indenne, mi dice beh sai ogni tanto non frena, ogni tanto frena, ogni tanto non frena, non è così. Quindi primo, noi dobbiamo da consumatori, da utenti della tecnologia pretendere che queste normative vengano introdotte e pretendere che i produttori siano responsabilizzati, perché oggi non lo sono, altrimenti la qualità in ottica security di queste cose che usiamo non crescerà mai. Secondo, dobbiamo cambiare comportamento. Si è ormai diffuso implicitamente un approccio ludico, un approccio un po' superficiale, un approccio quasi magico, no? nel rapporto delle persone con la tecnologia, per cui io clicco, faccio, dispo, come se fosse tutto facile, semplice e indifferente. Non è così. Noi stiamo usando degli strumenti complessi, la cui complessità è nascosta magari dalle interfacce carine, ma molto complesse. Li stiamo usando per fare cose delicate, tipo operare al cuore le persone con infarto o qualsiasi altra cosa. Li stiamo usando per far funzionare la logistica, per far funzionare la distribuzione dell'energia, sì, dell'acqua. Per far funzionare il mondo. Per funzionare il mondo. Esatto, far girare i soldi. E non possiamo pensare in un contesto di questo tipo e di iperconnessione di non fare la nostra parte. Bisogna innanzitutto passare dall'approccio ludico superficiale a quello diciamo scettico consapevole, e questo lo possono fare le persone, perché alla fine quello che clicca sul link del phishing è l'utente finale. Certo. Okay. Quindi adesso io faccio una traduzione molto col coltello. Pensate a quello che è successo quando siamo passati dalla TV analogica al digitale terrestre. Un'operazione che è durata anni, un'operazione che ha richiesto decisioni politiche a livello europeo, perché questo è stato fatto non solo in Italia, a livello europeo, soldi investiti in parte dallo Stato, ma soprattutto da parte degli utenti. Una cosa del genere, molto più complessa, dovrebbe essere fatta, tu dici, ma non lo dici solo tu, insomma questo è un pensiero che mi sembra molto interessante, bisognerebbe farla anche per la internet, cioè cambiare i protocolli che stanno dietro al funzionamento della internet, pensando a tutto quello che noi utilizziamo oggi, quindi tutto questo dovrebbe diventare più solido, robusto, affidabile, sicuro. Tu dici si può fare, costa un sacco di soldi, ma forse i soldi non sono nemmeno il problema, ci vuole una forte volontà politica. Quindi il G7, quando dice bisogna fare un mondo più sicuro, dovrebbe impegnarsi in questa direzione. E poi dovrebbe dire e quindi faremo delle normative stringenti in conseguenza. Senti, nel frattempo la domanda di molti è, vabbè, ma io come mi proteggo di fronte a questo aumento incredibile del ransomware? E di altre cose, malware che rubano credenziali bancari o soldi, truffe di ogni genere, furto di identità, eccetera. Allora, semplificando moltissimo, ci sono tre aree che noi dobbiamo considerare per ridurre, questo termine tecnico, la nostra superficie di attacco. Okay? Se tu offri un fianco come una portaerei, prenderai più siluri che se offri il fianco come un gommone. Okay? A parità di quello che fai online, ci sono dei modi per ridurre la tua superficie di attacco in modo anche significativo. Okay. Per esempio, mettere gli aggiornamenti ai sistemi che si usano. Tutte le macchine che sono state compromesse o sono macchine non più aggiornabili, macchine Windows XP per le quali non ci sono più gli aggiornamenti da anni, o sono macchine più recenti ma senza le patch di sicurezza. Perfetto, quindi o avere o sistemi operativi nuovi o comunque sempre aggiornati. Stessa cosa per i programmi, stessa cosa per le app. Gli aggiornamenti. Per tutto. Perfetto. Allora, non è pensabile oggi con la velocità dei fenomeni non avere l'ultima versione di tutto. Ok? È estremamente pericoloso. Mm. Secondo, i comportamenti. L'email che sembra provenire dalla compagnia elettrica, che però voi non avete perché ne avete un'altra, che vi chiede 700 euro di arretrati, non l'aprite. Certo. L'email che sembra provenire dallo spedizioniere che dice c'è un pacco per te e voi non aspettate nessun pacco, non l'aprite. Il messaggio strano, inatteso, fuori contesto che vi arriva sul social, sull'instant messenger, invece che condividerlo, fare le faccine, eccetera, non rispondete, non lo aprite. Allora, perché la maggior parte di questi attacchi sfruttano la curiosità, la inconsapevolezza delle persone, cioè non è una roba tecnologica. Sfruttano delle emozioni. Sì, sì, certo. Perché l'attaccante vuole che la vittima reagisca d'impulso, senza pensare. Sì, sì. Invece noi dobbiamo riprendere a pensare. Questo è il mio consiglio spassionato, sembra un po' il rimedio della nonna, ma è così. Dobbiamo riprendere a pensare, rallentare, darci il tempo di pensare. Che cos'è questa roba che mi è arrivata? Sì. Eccetera. Terzo, noi dobbiamo comprare e quindi premiare i prodotti più sicuri. Noi dobbiamo spingere sul mercato. Questo noi è però difficile. Come consumatori mettere il peso del nostro borsellino per favorire in una sorta di selezione naturale chi ci darà prodotti più sicuri, eccetera. Naturalmente, non falsamente sicuri, prodotti oggettivamente più sicuri. Però io come faccio a saperlo? E questo è poi il problema di chi fa i test. Certo, perché come faccio io a sapere che una cosa è sicura? Benissimo, allora bisognerà che, così come facciamo i test quando compriamo un frullatore sulle emissioni elettromagnetiche o quando compriamo un'automobile sui crash test con i manichini, eccetera, qualcuno decida di fare un ente che fa i test su software, sulle app, su internet, eccetera. Okay? Perché sennò oggi non c'è un modo per scegliere. Io comprerò o la cosa più luccicante, che mi hanno venduto meglio, o quella che è gratis, o quella che è gratis o che costa meno. E con questi due criteri la sicurezza non solo non migliora, ma peggiora. Certo, un ultimo, l'aggiungo io, il punto 4, soprattutto nei confronti delle aziende, anche piccole aziende, che troppo spesso non sono attente a questo aspetto della sicurezza, anche se ci stiamo avvicinando al 2018, in cui ci saranno tutta una serie di nuove normative che discendono dalla privacy ma che si estendono alla security, se non sbaglio, giusto Andrea? Sì, sì. Quindi ci saranno una serie di obblighi, però non basta l'obbligo, ci vuole un po' di attenzione. Quindi il punto 4 come potrebbe trasformarsi in due minuti? Capire una cosa veramente importante. Dall'altra parte del tubo, dall'altra parte dello schermo, non c'è come nella mitologia hollywoodiana un ragazzino sociopatico con cappuccio e la felpa che fa i dispetti. Sempre così. Guarda, fa una parentesi per i miei colleghi giornalisti che troppo spesso quando scrivono un pezzo sui siti internet o anche sui quotidiani relativo a questo mondo mettono troppo spesso la fotografia del ragazzino del col cappuccio. Esatto, è pazzesco. Il tipo col cappuccio non è il problema. E in certi casi addirittura può essere la soluzione se è dalla parte dei buoni. Ma sicuramente non è il vero problema. Dall'altra parte ci sono, e lo ripeto fino al sfinimento, dei criminali. I criminali ragionano da criminali. Sono pericolosi. Noi dobbiamo capire che il rischio è completamente cambiato. Non c'è un ragazzino dispettoso dall'altra parte. C'è un killer. C'è uno che per un riscatto di $300, torniamo a WannaCry, blocca un ospedale dove le persone muoiono se non vengono assistite. Perché il sistema è bloccato. Quindi? Allora, questa è gente che uccide. Per $300, quindi sì, sono veramente sì. Pessimi elementi. Allora bisogna capire che dall'altra parte ci sono questi soggetti capito questo, bisogna trarre le conclusioni esattamente come facciamo negli altri ambiti della nostra esistenza. E quindi decidere scientemente e non sull'onda di un'emozione che poi si stempera e passa, ma decidere scientemente e sistematicamente di investire in sicurezza una quota significativa dei budget IT e non una quota residuale. Certo, tu dici se abbiamo un problema fiscale andiamo dal commercialista, se abbiamo un problema con la legge andiamo dall'avvocato, eccetera, allora, eccetera. Per spiegarti questo punto, però chiudiamo in un minuto. Super sì. Sinteticamente, ti cito dei numeri che ho messo anche nel rapporto Clusit di quest'anno. E poi ho commentato. Allora, l'anno scorso grandi istituti di ricerca più o meno hanno concordato nel dire che in Italia si è speso 66 miliardi di euro per l'acquisto di beni e servizi legati all'IT. Okay? Una cifra interessante. In sicurezza, nello stesso periodo, cioè per proteggere questi 66 miliardi di euro, ne sono stati spesi 950-980 milioni. Allora, se noi facciamo la proporzione tra 66 miliardi e 980 milioni, scopriamo che è l'1,5%. Investito in sicurezza. Investito okay. In sicurezza. Tra l'altro, con quei 66 miliardi di IT, qualcuno dice che l'Italia genera un terzo, grazie a quei 66 miliardi di IT, l'Italia genera quasi un terzo del suo PIL. Quindi noi stiamo dicendo che spendiamo 66 miliardi in IT per generare un terzo del nostro PIL, cioè e lo proteggiamo, sono l'abilitatore per generare ormai un terzo di PIL, sì. E per proteggerli spendiamo 900 milioni, cioè l'1% dei 66 miliardi e lo 0,0001 del un terzo poco. Del PIL. Okay. Allora facciamo questa considerazione che è facile. In un'automobile, un'utilitaria di oggi, per legge, un terzo del valore del veicolo sono dotazioni di sicurezza attive e passive. Quindi se pagate 10.000 euro un'utilitaria, 3.000 sono in sicurezza. Oggi in qualsiasi progetto informatico ci va un 30% del suo valore, o un 20%, ma sicuramente non l'1, in sicurezza, fin dalla progettazione. Perché ovviamente la sicurezza aggiunta a martellate in un secondo tempo è meno efficace e costa di più che se la mettiamo fin dal disegno e fin da principio. Questo è il concetto. Noi dobbiamo passare da una spesa in sicurezza vissuta come un onere, una tassa, una scocciatura, a integrare la sicurezza come già abbiamo fatto nei frullatori, nelle automobili e in qualsiasi altra cosa. Grazie ad Andrea Zapparoli Manzoni per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie, ciao. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì sera, la domenica attorno all'ora di pranzo, dipende poi dalle usanze del pranzo, tra le 13.30 e le 14. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ricordo la nostra versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di automobili. Perché grazie o a causa della tecnologia, dipende dai punti di vista, il mondo dell'automobile e soprattutto di come utilizziamo e utilizzeremo le automobili sta cambiando molto. Ci aiuta Pepe Moder, che è un esperto di tecnologia, docente ai master del Sole 24 Ore, master diciamo digitali del Sole 24 Ore, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Parliamo di automobili, molti dei nostri ascoltatori stanno cominciando a comprendere che il mondo dell'automobile è cambiato, però diciamo che per ancora la maggior parte degli automobilisti o dei passeggeri, familiari o amici, parenti, colleghi di lavoro, il mondo dell'automobile è quello di 20 anni fa. Cioè si compra l'automobile, si usa l'automobile, si pagano un sacco di soldi di tasse, spese di manutenzione, carburante, eccetera, eccetera. Però, concludi la frase dopo il però. Però Enrico, il mondo sta cambiando. Perché? Beh, solo in Italia ci sono circa 37 milioni di auto per le strade. Queste auto vengono usate da 1,65 persone. Cioè una persona e mezza usa queste auto. Il proprietario spende di media, quindi tra l'auto utilitaria e l'auto di grande cilindrata, 3.500 euro per anno per avere un'automobile che è parcheggiata, se va bene in un box, se va un po' meno bene per strada, è utilizzata per il 4% del tempo. Cioè il 96% del tempo l'automobile è parcheggiata e non viene utilizzata. Pazzesco, eh? È pazzesco. Cioè è un dato che ognuno nella vita può ricavare. Per alcuni è molto di più, magari del 96%, questa ovviamente è una media, ci sono automobili invece che per la stragrande maggioranza del tempo sono per la strada, però ad esempio di notte no, perché non è che uno può viaggiare per 24 ore. No, cioè, il medione quindi... dei medioni ci dice che 23 ore su 24 l'auto è ferma. Sì, sì, è pazzesco. È pazzesco. E teniamo presente che questo è un bene che si svaluta ogni anno, per cui ho speso 20.000 euro, 30.000 euro per comprarla, appena esco dal concessionario ho già perso il 15% del valore. Un anno dopo perdo un altro 15-20% e via dicendo. Aggiungiamoci anche come sta cambiando il mondo della mobilità dovuto alle pressioni da parte dei governi per la diminuzione degli inquinamenti e quindi tutte le regolamentazioni legate al traffico in centro nelle grandi città, alla regolamentazione delle emissioni delle auto e quindi alla necessità di spingere all'acquisto, comunque al cambiare l'automobile, perché magari è una macchina che ha 10 anni, funziona perfettamente, ma non la posso più usare se non il sabato e la domenica per le limitazioni del traffico e dell'inquinamento e via dicendo. Certo, su questo punto apro una parentesi ma la chiudo subito. Ovviamente c'è sia un elemento vero di lotta all'inquinamento, c'è anche molta ipocrisia e buona parte è fatta, questa regolamentazione è fatta per vendere più automobili, ma per certo, spingere. Sappiamo che l'industria dell'automobile è una delle principali industrie nei paesi occidentali, quindi questo poi ritorna, non è un beneficio solo per alcuni, è un beneficio per tutti i lavoratori. Poi, assolutamente. Poi non entriamo in questo capitolo, noi stiamo parlando e parleremo di come la tecnologia sta favorendo questo cambiamento. Nascono quindi una serie di servizi che agevolano la mobilità sia nei tratti brevi che nei tratti lunghi. Nei tratti brevi con servizi di car sharing tipo Enjoy, Car2Go, DriveNow, dove una persona scaricando un'app sul suo telefonino, e questo è l'abilitatore, l'elemento che ha abilitato, la tecnologia che ha abilitato la diffusione di questi nuovi comportamenti di mobilità, perché 15 anni fa, non essendoci gli smartphone, non era possibile, non che non fosse possibile da un punto di vista comportamentale dell'utente, non era possibile da un punto di vista della tecnologia. Sì, oppure sarebbe stato molto più macchinoso. Sì, farlo con il WAP o con gli SMS, diventava proprio un lavoro, no? Sì. Oggi il telefonino ti permette veramente di prendere una macchina in 5 minuti, in 3 minuti. Certo, qua stiamo parlando di car sharing, quindi auto che sono disponibili in alcune città italiane. Esatto, affitto un'automobile, soprattutto nei grandi centri, ecco. Però affitto un'automobile per un tempo limitato, un'ora, mezz'ora, una giornata, mezza giornata. Anche 4 minuti. Anche 4 minuti, sì. Il tempo che voglio. Ecco, qui vorrei dire ai nostri e molti ascoltatori che ci ascoltano da fuori città, non stiamo parlando di una evoluzione futura, ma di una realtà, tra l'altro con un successo incredibile. Devo dire che Milano è probabilmente una delle principali città europee per crescita di questo mercato. Se uno va in giro per Milano, anzi io invito gli ascoltatori che non sono di Milano a venire a provare, cioè, secondo me può essere un buon motivo per una visita. Bravissimo. Uno viene a Milano e dice: voglio provare come funziona, perché è fantastico, perché spiega come funziona. Scarico l'applicazione, sì, sul mio telefonino, la installo, mi registro, tendenzialmente inserisco i miei dati, la carta di credito, oppure posso pagare con PayPal, cerco sulla mappa interattiva, cerco un'automobile, vado a prendere l'automobile disponibile, la prenoto, vado a prendere l'automobile disponibile, apro l'automobile con il mio telefonino, uso l'automobile per il tempo necessario e pago a tempo, e quindi ho affittato l'automobile. L'invito lo rafforzo per chi per lavoro spesso viene nelle grandi città, Milano, Roma, Torino, Napoli, molto spesso magari viene in macchina. Ecco, io abito a Torino, ci metto molto meno tempo con un treno veloce da Torino arrivare a Milano o con un BlaBlaCar, ma ne parleremo dopo, che non a utilizzare la mia auto, perché io in 50 minuti Torino-Milano alta velocità ci sono, arrivo a Milano e posso affittare un Enjoy e muovermi con la macchina, oppure utilizzare anche altri servizi che poi andremo a vedere. Certo, e questo è il mondo del car sharing. Il mondo del car sharing, che è nato grazie allo smartphone, diciamo così. Sì, fondamentalmente sì. È stato l'abilitatore. Per chi vuole venire a provare, ricordiamo che la fase di registrazione non è immediata, nel senso che c'è bisogno. Lo facessero prima da casa, sì, e esatto, poi arrivassero già qua registrati. Anche perché alcuni operatori richiedono che si vada in ufficio a ritirare la tessera, oppure la tessera deve arrivare a casa. Deve arrivare a casa. Sì, sì, però insomma. richiede un attimino di tempo. Sì, però una volta che noi tutti in questo studio, poi c'è anche un terzo ospite, che un secondo ospite, una terza persona in studio che vi presenteremo tra poco, siamo dei grandi utilizzatori di car sharing. Esatto. E questa è una realtà che è diventata popolare in molte città. Quindi questa è una trasformazione. È una trasformazione più, secondo te, più guidata dalle esigenze dei consumatori automobilisti o dalle esigenze di trasformare il business, e anche su questo torneremo, delle case automobilistiche? Allora, secondo me è molto più la prima, così come l'e-commerce. Le case automobilistiche in generale sono degli enormi pachidermi che fanno una fatica enorme ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato. Hanno dei costi fissi enormi e quindi la tecnologia tende ad essere un elemento di discontinuità e che crea molti problemi. Quindi prima di imbarcarsi in una nuova iniziativa che richiede largo apporto di tecnologia, nuovi processi, nuove modalità di lavoro, nuova società, vogliono essere sicure che ci siano dei bacini di utenza. E questo è il motivo per cui l'e-commerce sull'automobile non è ancora decollato, così come invece in realtà, per esempio, l'ultima ricerca di Capgemini del novembre del 2016 dice che il 76% dei potenziali clienti di automobili in Europa sarebbe pronto a comprarlo online. Pensa un po', incredibile anche questo. È incredibile, sì, è incredibile, sì. Poi parleremo anche dell'e-commerce, sì. attraverso i produttori di auto. Ecco, ci sono anche delle interessanti realtà a livello locale di car sharing sul mondo delle auto elettriche. L'auto elettrica tendenzialmente ha dei costi molto più elevati di acquisto, molto più elevati rispetto alle auto tradizionali. Ecco, il car sharing può essere un ottimo strumento per prendere contatto con queste automobili, con questo nuovo tipo di prodotto e con questo nuovo tipo di mobilità. Ne cito uno solo che io utilizzo a Torino, è Blue Torino, che ha dei prezzi competitivi con gli altri car sharing. Certo. Ci sono poi invece tutto il mondo del carpooling, quindi della condivisione dell'auto di proprietà di Pepe Moder insieme ad altre persone che fanno lo stesso percorso o un percorso simile. Per tratte brevi, tipo Zigo, italiana, la vecchia Uber Pop, che però in Italia non c'è più e anzi nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo non è riuscita a decollare, ha avuto dei grossissimi problemi per problemi di concorrenza con i taxi. Let's Go, che è un altro esempio in Svizzera. E poi ci sono le lunghe percorrenze, che è BlaBlaCar. Cioè, queste sono modalità per condividere i costi su brevi o lunghe tratte. Esattamente. Cosa significa? Significa, per esempio, con Zigo, io anche in questo caso il telefonino, lo smartphone è l'abilitatore, scarico l'applicazione, cerco qualcuno che sta andando nella zona dove io devo andare. Allora entro in contatto, salgo sulla macchina e do un rimborso spese, non c'è un pagamento di una prestazione, è un rimborso spese. Questo è molto importante perché è il punto di discontinuità, di differenza che ha posto la comunità europea per dire: se volete fare un mestiere dovete fare i tassisti, e i tassisti pagano le tasse, devono comprare la licenza e via dicendo. Certo. Se invece è un rimborso spese, allora è un'altra cosa. Addirittura io con Zigo in teoria posso salire su una macchina e posso anche non pagare, perché alla fine del percorso, del viaggio, io ho un ammontare suggerito di pagamento. In teoria potrei non pagare, non penso che sarebbe non sarebbe particolarmente né etico né particolarmente apprezzato. Perché molte di queste piattaforme, di questi sistemi tecnologici funzionano grazie a una sorta di fiducia, e anche di questo parleremo. Allora, Zigo si scrive Zego. Zego. Ed è italiana? Sì, italiana abbiamo. Quando si chiamava in modo diverso avevamo intervistato uno dei fondatori, magari torneremo anche su questo. Poi c'è qualcos'altro che possiamo ricordare? Beh, possiamo ricordare JoJob, che è molto interessante perché è una piattaforma, quindi è un sistema che viene offerto alle aziende, le quali lo possono dare, lo possono permettere l'accesso ai propri dipendenti, i quali possono condividere un passaggio, andata e ritorno, presso, da casa alla sede di lavoro, non solo per quell'azienda, ma anche per le aziende limitrofe. Quindi diventa, uno strumento che mette in contatto chi ha la macchina con chi deve andare in un certo luogo, in una certa zona geografica. Molto interessante perché in realtà JoJob fornisce anche all'azienda tutti i dati, perché riesce a tracciare tutto il servizio, fornisce tutti i dati di corporate social responsibility, e quindi dall'azienda le informazioni di quanto i suoi dipendenti hanno risparmiato in termini di consumi di emissioni di tonnellate di monossido di carbonio, quanti chilometri sono stati percorsi con lo sharing al posto di avere auto maggior numero di auto in più, che può essere messo a bilancio, attenzione, messo a bilancio, molto molto importante. Certo, questo lo mettiamo nel capitolo car sharing aziendale. Sì. Tu hai citato JoJob, ma ci sono altre società, ci sono tante altre soluzioni, e molte aziende stanno cominciando a proporre ai propri dipendenti il car sharing aziendale, che è una bella idea, perché la stessa Audi ha un servizio del genere. Interno. Interno, sì, tra i dipendenti. Faccio un'ultima citazione interessante, si chiama Utrip. È un servizio sempre di carpooling, quindi condivido la mia automobile con qualcun altro, ma lì non c'è un compenso, un corrispettivo, se non un baratto. Quindi puoi pagare in bottiglie di pomodoro, in bottiglie d'olio, in conserve fatto dalla mamma. Tu metti a disposizione, dici: io devo andare da A a B e metto a disposizione 5 litri d'olio, e se c'è qualcuno da A a B che ti vuole portare o che fa quella tratta, c'è questo scambio, questo baratto. Esiste anche in Italia? Sì, Utrip.it. Pensa, perché sei è interessantissimo. E BlaBlaCar invece per le lunghe distanze. Certo. Quindi persone che magari utilizzano molto per lavoro l'automobile e che si muovono spesso hanno la possibilità di poter offrire un passaggio. Io lo utilizzo moltissimo su Milano-Torino, sia l'andata che ritorno. Oggi per esempio torno a Torino alle 6, mi aspetta un conducente, cioè un proprietario di auto, mi carica e andiamo a Torino insieme, ed è anche un modo molto piacevole, uno per conoscere persone differenti. Una delle prime volte ho fatto un viaggio con un cantante d'opera del Regio di Torino. Fantastico. Abbiamo, insomma, incontri un mondo meraviglioso, no? E passi un'ora e mezza a dei prezzi che sono più competitivi del treno. Certo, e questo è un tema di dibattito, discussione molto interessante. Dario Cardile, Get My Car, benvenuto. Grazie Enrico, grazie per me. Dunque, tu fai parte di Get My Car, ci racconti che cosa farete tra poco, perché sta partendo questo nuovo servizio che possiamo inserire nella lista che Pepe Moder ci ha fatto. Dove lo inseriamo? Car sharing, carpooling, che cos'è? È una car condivisione a lungo termine, medio-lungo termine, tra privati. Condivisione quindi, a medio-lungo termine. Quindi il grande vantaggio è che l'utente, che come diceva giustamente Pepe, ha dei costi fissi annuali, ha dei vantaggi notevoli a condividere la propria auto medio-lungo termine a altri quando non la usa. Quindi noi diamo l'opportunità attraverso una rete di parcheggi. Noi abbiamo sviluppato la piattaforma in collaborazione con Parking Go. Attraverso la rete di parcheggi aeroportuali in Italia di Parking Go riusciamo a mettere a disposizione l'auto di chi non le usa. Io vado in vacanza 2 settimane, 3 settimane, invece di pagare il parcheggio monetizzo sulla macchina che ho, quindi non faccio un guadagno ma condivido la mia auto per ridurre quei costi di gestione annuale che quindi, ho sul veicolo. Cioè, quindi da qui il nome. Da qui il nome Get My Car. Get My Car, cioè prendi la mia macchina. Esattamente. Quindi voi partite dai parcheggi, poi questo modello può essere esteso all'infinito ovunque, giusto? Anche a casa mia forse. Assolutamente. Poi, l'idea che noi pensiamo di base, Enrico, è quella che è del trust, della fiducia. Come sai ci sono tanti problemi al momento sulla fiducia delle auto prese da Car2Go e Enjoy, perché chiaramente chi le usa magari le usa anche impropriamente. Noi invece riteniamo di creare un senso di community tra i nostri utenti, in modo tale che sai che dall'altra parte, quando prendi l'auto di qualcuno, dall'altra parte c'è un padre di famiglia che usa l'auto per lavoro, per accompagnare figli a scuola, e quindi creiamo quel senso di community, di fiducia, di rispetto tra uno e l'altro, in modo tale che il veicolo venga preso in considerazione e venga utilizzato nel migliore modo possibile. Ovviamente siamo coperti assicurativamente tutto, però è importante questo senso di community. Sì, questo è importante. Facciamo l'esempio dell'esperienza di una persona che si iscrive. Voi partirete fra alcune settimane, sì, quindi a giugno, quindi, diciamo, vi preparate all'estate, in cui molte persone vanno in aeroporto, lasciano l'automobile in parcheggio, e a questo punto che cosa succede? Sia lato proprietario, esatto. Il proprietario può chiedere di lasciare l'auto in condivisione su Get My Car, quindi dà tutte le informazioni sufficienti, l'assicurazione e tutto all'interno dei parcheggi di Parking Go e la consegna allo staff di Parking Go. Chi è interessato a acquistare un veicolo arriva sul nostro sito prima, poi sarà anche sull'app, e cerca un veicolo da quella destinazione, riportandolo a quella destinazione. avremmo consideriamo il fatto che, essendo una community, noi avremmo validato l'utente che chiaramente cerca il veicolo, avremmo i suoi dati fiscali, la carta di credito e tutto, ma avremmo anche i suoi documenti, quindi patente e documenti di identità. Quindi conosciamo il soggetto e quel soggetto può prendere il veicolo per quel periodo in cui l'auto è ferma all'interno del parcheggio Parking Go. E la viaggio si trasporta dove vuole, non abbiamo limitazioni, abbiamo dei chilometri che diamo, e quindi a quel punto condivide, corrisponde al proprietario una piccola fee, diciamo un piccolo pagamento che riduce i costi, quindi non è un guadagno, non è un autoleggio per noi, è una condivisione tra privati, quindi riduco il costo di gestione del proprietario. Certo, quindi se io vado in vacanza 15 giorni, oppure vado via per lavoro una settimana, lascio la macchina in parcheggio e sono fortunato perché trovo una persona tramite la vostra piattaforma, il vostro servizio, che prende quella macchina per una settimana, A, non paghi il parcheggio, corretto, B, mi riprendo qualche soldo. Esattamente, esattamente. Ritrovo la macchina in perfette condizioni, lavata, pulita, è un problema col piede. Ah, Pepe. Dario, ma lo possono fare anche le persone che hanno un'auto aziendale? Questo lo possono fare se sono autorizzate, quindi in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Sarà a loro cura di assicurarsi che questo chiaramente sia il caso. Si possa fare, certo. E anche qui si apre uno scenario. Stiamo parlando di piccoli semi che stanno nascendo. Negli Stati Uniti questa cosa già funziona. Non so se funziona molto bene. Magari anche in altri paesi, non lo so. Sì, funziona molto bene in US e in alcuni paesi europei. In Italia la legislazione è molto più, come dire, restrittiva, molto più controllata, regolamentata, e per noi quindi abbiamo fatto uno sforzo non indifferente a assicurarci che operiamo all'interno della legalità, ovviamente, perché vogliamo assicurare ai nostri utenti e alla nostra community abbiano un servizio ottimo, ma anche ovviamente legale. Sì, è molto interessante tutto ciò. E ci sono evidenti vantaggi in termini di efficienza, a proposito del numero che Pepe prima ci diceva, cioè del 96% del tempo che la macchina è lì ferma e non fa niente. Pensiamo appunto quando uno va in vacanza, 100%, cioè la macchina è lì ferma. E uno si potrebbe domandare, ma è possibile che si trovino così tante persone che hanno fiducia e siano disponibili a cedere a degli sconosciuti l'automobile? Uno, pensate che ci sono milioni di persone che cedono la propria casa. Forse è più intima la casa che l'automobile, però questo immagino che sia un po' un problema per voi. Pensavamo lo fosse anche noi, in verità, quando siamo partiti con l'idea. Abbiamo fatto una serie di survey all'interno dei nostri clienti, nostri potenziali clienti, e abbiamo visto che invece l'interesse è molto alto, perché se noi facciamo anche un passo indietro, Airbnb 10-15 anni fa, e avessimo chiesto in generale agli utenti, ai nostri ascoltatori, avremmo chiesto: ma già daresti la tua casa per n settimane degli strani? Probabilmente 20 anni fa la risposta sarebbe stata no. Oggi tutti parlano invece di Airbnb, do la mia casa in Airbnb, addirittura Airbnb diventa un verbo. Io in inglese ti dice I Airbnb la mia casa, no? Quindi la gente si è abituata a vivere col tempo. Secondo me questo verrà anche per le auto, perché vediamo i costi di gestione sono sempre più alti, di manutenzione sono alti, le opportunità di condividere l'auto sono sempre più semplici. Se si crea, secondo me, il giusto senso di community, per questo vi dicevo, alla fiducia, al trust, alla relazione tra le persone, è molto importante, e secondo me questo sarà la chiave di lettura della condizione della proprietà. Lo do e la riprendo nelle condizioni in cui l'ho dato. Infatti noi facciamo uno sforzo non soltanto a ritornare il veicolo nelle condizioni giuste, ma anche avere tutti gli aspetti assicurativi dietro che ci assicurano che il proprietario sia protetto, cioè ritorna o alla macchina nelle condizioni data, oppure provvediamo a ridarla in quelle condizioni. Certo. Dove partirete? In quali aeroporti? Partiremo in Sardegna prima, Olbia e Cagliari innanzitutto, e poi a Punta Aldea e a Venezia. Riteniamo due hub per noi strategici per la partenza, essendo anche una un'isola e un grande hub turistico per quest'estate. Da settembre-ottobre apriremo su tutta la rete dei Parking Go, rete di parcheggi aeroportuali, e poi l'anno prossimo avremo delle grandi novità. Però per il primo anno, diciamo, saremo all'interno della rete Parking Go. Sì. E potenzialmente questa cosa potrebbe essere estesa ovunque. Cioè ecco, l'unico problema è che bisogna trovare un modo per dare la chiave alle persone, perché in questo caso nei parcheggi la chiave è disponibile presso il parcheggio, quindi uno va, prende la chiave e prende la macchina. Correttamente, sono due le barriere. Una è giustamente quella della presa in carico della chiave, quindi della consegna della chiave, che in questo momento la effettuerà ovviamente lo staff di Parking Go. In futuro per noi ritiamo che c'è anche un altro valore aggiunto: la consegna del veicolo all'interno di un'area, diciamo, certificata, ci dà anche la sicurezza che tra le parti lo scambio sia equo, cioè io, il proprietario, non devo essere in quel momento disponibile, ma al tempo stesso so che l'auto mi è consegnata in determinate condizioni. Noi avremo tutta una struttura che ci dà le foto del veicolo prima e dopo la consegna, e quindi diamo anche quel senso di sicurezza che facevo prima. Quindi il vantaggio della rete strutturata e autorizzata di ParkingGo non è solo quella delle chiavi, come giustamente menzioni te, ma anche quella di incominciare a creare quel senso di trust, che in Italia, e chiaramente, come sai, si fa abbastanza difficoltà dopo quello che si vede, non so se avete letto gli articoli di recente, ci sente tanto sul car sharing, quello orario di minuti, ha diverse problematiche. Quindi noi vogliamo evitare quelle. In futuro però possiamo aprire a tutte le destinazioni. Pepe. Volevo aggiungere un punto importante, proprio che aiuterà lo sviluppo di queste piattaforme, di questi servizi. Recentemente il governo ha legiferato sulla black box, quindi su quella scatola nera che viene messa in automobile per il mondo assicurativo. Ecco, questo strumento può diventare uno strumento di abilitazione dell'automobile per l'utilizzo da parte di terzi, che tradotto significa che attraverso la black box io domani posso con il mio telefonino aprire l'automobile di un'altra persona, se del proprietario, se quella persona mi dà l'autorizzazione. Quindi domani, a parte le limitazioni di natura legislativa, potremo anche pensare ad aprire non solo in aeroporto, ma anche in altri luoghi, l'automobile che è stata lasciata, parcheggiata per un certo periodo di tempo. Dario. Infatti su questo tema è proprio una delle novità che dicevo prima per l'anno prossimo. Stiamo già lavorando col produttore di questo black box e la nostra assicurazione. Far sì che questi dispositivi verranno montati proprio per dare questa capacità. Sì, ma io penso che fra qualche anno non ci sarà più il concetto di black box, ma che l'auto saranno integrate. Sarà connessa nativamente e io con la mia app potrò decidere che cosa fare della mia automobile, cioè liberarla oppure... Perché ovviamente... Il servizio, così come l'avete pensato voi, è gestibile con tutte le difficoltà del caso, però in un certo limite, in un certo perimetro, perché io vado in vacanza, quella macchina so che per 10 giorni, 15 giorni è disponibile. Mettere in condivisione la macchina davanti a casa mia diventa più problematico, perché io devo decidere per quanto tempo la metto in condivisione, perché se oggi pomeriggio mi viene in mente che ne ho bisogno all'improvviso, e se io l'ho data a noleggio, ovviamente, insomma, comunque l'ho data in condivisione, diventa un problema. Però questa è una evoluzione dell'uso delle auto di proprietà, anche se sul concetto di proprietà c'è chi dice che in futuro, proprio grazie agli smartphone e alla tecnologia, non ci saranno più auto di proprietà. Diciamo che ci si aspetta un mercato che vada attorno al 15-20% entro il 2030 di automobili non di proprietà, cioè di servizi di car sharing e di carpooling. Quindi diciamo che una persona su cinque probabilmente non comprerà più l'auto. Pensavo anche di più, però secondo me vedremo delle sorprese. Da qui al 2030 secondo me possono cambiare parecchie cose. Dario, quanto costerà un... Ci puoi dare delle anticipazioni o è complicato? Sì, il servizio sarà... Allora, noi avremo offriremo contestualmente sia il servizio tra privati che anche l'opportunità a professionisti di mettere le proprie auto, quindi sono già in concessione autonoleggio, quindi è un servizio diverso, complementare, quindi la gente potrà scegliere. Quelle che sono da privati, noi diamo una raccomandazione che è molto bassa, cioè diamo un prezzo basso, raccomandiamo al cliente di utilizzare un prezzo basso perché è un concetto di condivisione, scusa Rico. E quindi è importante che il prezzo sia altamente competitivo rispetto anche a quello dell'autonoleggio tradizionale. Noi non facciamo noleggio, siamo un'alternativa all'autonoleggio e quindi ci vogliamo posizionare anche economicamente su quello. L'utente potrà scegliere all'interno di un range, di un intervallo di prezzo, ma decisamente sempre più basso dell'autonoleggio, perché riteniamo che quello è il nostro differenziale di condivisione del costo. Prima cosa. Seconda cosa, è anche importante notare che all'interno di questi servizi tu giustamente hai anche l'esperienza che diceva prima Pepe, quindi prendi un'auto, la puoi condividere anche con un passaggio, quindi prende l'auto, noi offriamo la possibilità di dire ok, pago una percentuale per prendere l'auto in gestione per la settimana, però n percorsi che farò in questa settimana offro dei passaggi, quindi a quel punto posso avere anche una riduzione ulteriore dovuta alla condivisione dell'auto che ho appena presa in condivisione, quindi la possibilità anche di ridurre ulteriormente i costi. Però è importante, perché non c'è una marginalità dietro, non c'è una profittabilità, deve essere una community che da sola si alimenta e che aiuta e si fida l'un dell'altro. Quindi avremo anche delle review, per esempio, no? Adesso non la voglio far troppo difficile, però una evoluzione futura potrebbe essere, se si riescono a incrociare la domanda e l'offerta, di una persona che adesso immaginiamo che in futuro sia disponibile in tantissimi aeroporti d'Italia, anzi sicuramente 26 quindi perfetto, che uno dice mi porti l'automobile perché tu ne hai bisogno da Milano a Torino, Perché io prendo un aeroplano a Milano e per motivi X di lavoro, per vari motivi, torno a Torino. Ovviamente se io porto la macchina in parcheggio devo tornare in quell'aeroporto, perché sennò l'automobile che me la sposta. Ecco, se uno trovasse la persona che invece con l'automobile deve andare, ecco, tutte queste cose saranno talmente evolute interconnesse per cui si potrà trovare anche questa cosa. Tu prima, Pepe, dicevi molte di queste evoluzioni sono guidate dal consumatore che ha desiderio di cambiare, ha necessità e quindi trova utili questi servizi. Devo dire che appunto tutti noi in città hanno trovato il car sharing un servizio straordinario e molto conveniente. Però anche i produttori stanno cominciando a guardare a questi servizi per cambiare la propria pelle, perché devono cambiare. Il vero problema dei produttori è che purtroppo, ahimè, sono delle aziende con dei costi fissi enormi. Non posso pensare di diventare così, più elastico da un giorno all'altro. Catene di produzione lunghe centinaia di metri, investimenti di miliardi di euro. Noi quando parliamo con un car manufacturer, cioè un produttore di automobili, che decide di sviluppare un nuovo modello, quindi non un'evoluzione di un'auto esistente, stiamo parlando di miliardi di euro di investimenti, miliardi, e stiamo parlando di anni, quindi stiamo parlando di una finestra temporale di 5-7 anni di lavoro. Quindi ovviamente questo diventa sempre più difficile per un produttore sostenere questo tipo di costi e fare e gestire una concorrenza che invece è velocissima e che non ha in realtà questi costi fissi, perché non produce auto ma mette in condivisione prodotti e beni che sono di qualcun altro. Certo, e quindi questo, è molto più veloce. Questo è uno dei motivi per cui vediamo e lo sperimentiamo che le automobili sono tendenzialmente un prodotto un po' più vecchio rispetto agli smartphone. Sì. Cioè tutti i produttori stanno facendo una comunicazione pesantissima sulla tecnologia, ma è una tecnologia che è già vecchia. Proprio per questo motivo, cioè pensiamo quando un produttore dice l'auto che ti legge gli SMS, ma chi è che ormai gli SMS non li usa più nessuno, tu dici ma cosa hai fatto? No, è perché si pensa a una cosa che poi andrà sul mercato qualche anno dopo. Tant'è, a proposito di questa lentezza, che leggevo recentemente una ricerca che dimostrava che la stragrande maggioranza degli utenti non utilizza o utilizza poco i sistemi di infotainment e usa lo smartphone, perché i sistemi di infotainment sono delle ciofeche su tutte le macchine praticamente, anche sui top di gamma. Cioè. Beh, se tu pensi che io produttore di automobili, incomincio a immaginare una nuova auto oggi, che uscirà fra 5 anni e incomincio a pensare al sistema di infotainment oggi, da qui a 5 anni tutto cambiato. Apple, Google, immaginati chiunque, qualsiasi produttore di telefonini ha già fatto 2 generazioni, 3 generazioni di smartphone. Quando vedo le auto che con le quali tu piloti il sistema di infotainment con i gesti, è una roba vecchia. Cioè adesso la concentrazione dei produttori invece di smartphone è sulle interfacce vocali. Assolutamente. Quindi questo è uno dei motivi. Ecco, i produttori come fanno a reagire a questo, problema? Questo è un grosso punto di domanda dal loro punto di vista. Anche perché i competitor, a differenza di altri mercati, tu prima hai citato il mercato del mobile, quindi i produttori di smartphone. Prendiamo anche i produttori di portatili, no? Quindi di computer portatili. Negli ultimi 10 anni, negli ultimi 15 anni sono cambiati 10 tra i primi 15 produttori, perché sono arrivati dei nuovi che si sono, che hanno preso posto nella classifica dei più venduti. Molto differente invece lato automobili, perché negli ultimi 15 anni solo 2 nuovi produttori, Tesla è quello che conosciamo tutti quanti, sono entrati, tra virgolette, in classifica. Ecco, però che cosa succede? Succede che l'automobile come oggetto, quindi di metallo con 4 ruote, sta cambiando pelle e sta diventando sempre più tecnologica, ma la tecnologia è più facilmente importabile o concepibile, quindi costruibile da chi la fa, quindi dai vari Google, dai vari Apple, i quali... Quando parli di tecnologia parli soprattutto di software. Certo, parlo di software e della capacità di integrare oggetti, lo smartphone, all'interno di una macchina. Perché spesso si parla di uno smartphone con 4 ruote quando si parla delle nuove auto? Perché in realtà le auto verranno abilitate dallo smartphone, e se l'auto non è più mia, in realtà l'auto diventa mia quando io gli metto il mio smartphone. Cambierà, perché si adatterà alla mia guida, alle mie preferenze musicali, alle mie preferenze di servizi. Poi a fianco ai giganti della tecnologia ci sono, e ai nuovi produttori che abbiamo citato, ci sono anche invece le piattaforme, cioè coloro i quali disintermediano la catena del valore. Abbiamo prima citato i vari Zipcar in America, per dirne uno, ma per dire piattaforme tipo appunto BlaBlaCar, ma ci sono anche piattaforme, e lo vedremo in una delle prossime puntate 2024, piattaforme che cambiano il modo di acquistare l'auto. Quindi parleremo di Carvana, parleremo di CarWow in Inghilterra. CarWow, giusto per dare un piccolo semino di quello di cui parleremo, CarWow è il mutui online dei concessionari, e quindi ti permette di configurare un'automobile e di trovare qual è il concessionario che te la offre al miglior prezzo, e magari anche 250 km da qui, ma normalmente 250 metri. Ma no, anche 250 km, anche perché una volta che hai comprato l'auto, quante volte torni dal concessionario? Ah, no. Tendenzialmente mai. Molto poco. Sì, sì, sì. Quindi come si stanno, per rispondere alla tua domanda, come si stanno attrezzando? Beh, allora, da una parte cercando di fare partnership o acquistando, quindi facendo investimenti in startup anche molto importanti. Mercedes, ne abbiamo citata una prima, General Motors ha acquistato per 1 miliardo di euro una società che si occupa di rendere autonoma la guida delle automobili tradizionali. Ma ci sono anche altre modalità di approccio al mercato. La vendita online, che oggi è ancora limitata, non tanto per il desiderio da parte del consumatore, ma proprio per le problematiche, come dire, inerenti le regole con i rivenditori, gli attuali rivenditori, per cui abbiamo quelle che vengono definite le flash sale, cioè la vendita attraverso van privé, BMW l'ha fatta. Sì. Vabbè, non anticipare troppo. Di quello di cui parleremo, però insomma tutta la parte dell'e-commerce è una parte molto rilevante. C'è un problema lato produttori di auto, i quali oggi si basano ancora moltissimo sulla vendita delle auto tramite i concessionari, e quindi il ruolo dei concessionari sul mercato, certo, cambierà drammaticamente. Certo, questo è un problema, e in generale possiamo dire che per i produttori saranno problemi seri. Sì, perché secondo me qualcuno sparirà. Se l'auto diventa sempre più commodity, come i computer, come gli smartphone, e la differenza la fa i software, sono problemi seri. Dario, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa sui particolari distributori, che è un tema interessante, perché in questo momento i concessionari hanno un serio problema di vendita, chiaramente tramite tutti questi canali, quindi cercando di intercettare questi canali le proprie vendite. Quindi, quando facevo riferimento prima, la capacità di mettere sulla piattaforma Get My Car anche le auto dei professionisti, intendiamo proprio questo: il concessionario che oggi deve far numeri, deve comprare, va a comprare questi veicoli e li può mettere in piattaforma, quindi a uso a noleggio, non più condivisione, però con lo stesso meccanismo. Cioè dico, io oggi compro l'auto dalla Fiat, dalla Renault, a un prezzo conveniente, e la monetizzo fin tanto che qualcuno la venga a comprare un qualche chilometro in più. Certo, quindi invece di tenerla ferma in concessionaria la metto a disposizione. Quindi sempre il problema, certo, di avere un'auto ferma, che può essere di un privato o di un professionista, che voglio condividere. L'idea è sempre analoga, e riteniamo che per i concessionari sia un tema importante, perché molta più gente o non compra l'auto perché la vuole condividere di qualcun altro, oppure perché vuole abbattere i propri costi, sì, se ne necessita. Lo farete di sicuro, o è un'idea ancora? Assolutamente, partiremo con questo. Avremo le due modalità, e saranno ben distinte, perché uno chiaramente è condivisione, l'altro è autonoleggio. Già da giugno le avremo. Molto bene. Io ringrazio Pepe Moder per essere stato con noi. Ciao, a presto. Grazie mille, Enrico. Ciao. E anche Dario Cardile. A presto, in bocca al lupo. Crepi. Grazie, Enrico. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Quella che avete ascoltato è la nostra versione podcast, il nostro super podcast con le interviste in versione integrale. Speriamo che anche per questa settimana il contenuto delle nostre chiacchierate sia stato di vostro gradimento. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana.